Europa 24. E un saluto anche da Anna Migliorati. This proposal will be finalized and presented under, of course, the understanding that martedì prossimo la proposta ufficiale, la conferma, lo sentite questa mattina nel consueto briefing a Bruxelles, il presidente della Commissione europea Juncker ha deciso di andare avanti per un controllo congiunto delle frontiere europee, un'accelerazione imposta dalla crisi dei migranti e ancor più dopo gli attacchi di Parigi. Proposta che si va delineando in queste ore. Stando alle indiscrezioni, il progetto prevede che l'ultima parola su dove impiegare queste forze spetti alla Commissione europea, anche contro l'esplicito rifiuto del governo del paese. Di fatto dunque gli Stati membri cederebbero una parte importante della propria sovranità nazionale. A spingere per il progetto di legge sono Francia e Germania, che hanno avvertito l'esecutivo Juncker di come la sopravvivenza dell'area Schengen sia subordinata alla creazione di una forza da inviare alle frontiere esterne in grado di sigillare i confini che definiscono più permeabili. Accordo però ancora tutto da trovare. Intanto è a Roma il commissario europeo all'immigrazione Dimitris Avramopoulos, che intervenendo alla conferenza sul Mediterraneo ha ribadito questa mattina un'agenzia di polizia di guardia costiera europea comune per, dice, difendere le frontiere ma anche offrire sostegno ai migranti sarà un'altra pedina a disposizione dell'Europa. Accordo complesso che si prospetta anche sul fronte dell'accordo sul clima a Parigi, tant'è che è slittato a domani. E anche per la delegazione europea, dunque, ultime ore di trattative. Laura Bettini. Buongiorno, sì, io ho proprio parlato pochi istanti fa con uno dei rappresentanti della delegazione europea, che è l'onorevole Giovanni Lavia, presidente della Commissione Ambiente al Parlamento europeo, che mi diceva che c'è grande ottimismo perché questo accordo riesca e sia soddisfacente, abbia anche alti obiettivi. Lo spiega questo suo ottimismo perché il numero dei partecipanti è molto alto, perché le intenzioni espresse di riduzione delle emissioni, quindi di contenimento del riscaldamento globale da parte dei partecipanti, che ricordiamo sono quasi 200, indicano che c'è effettivamente la volontà di intervenire su questo tema. È chiaro, dice Davia, che però i compromessi sono necessari. Noi come europei siamo rimasti molto contrariati dal fatto che si volesse escludere il settore aereo e quello navale dai settori che dovranno ridurre necessariamente le loro emissioni, perché non è possibile trovare dei settori che non partecipino di questo sforzo, come abbiamo dovuto cedere sulla decarbonizzazione perché non era accettato. Allora facciamo un passo indietro oggi per ottenere qualcosa domani, è sostanzialmente il messaggio di Giovanni Lavia. Anna, te la linea. Grazie Laura Bettini. Allora già vi anticipo che torneremo a parlarne questa sera d'Europa Notte e poi domani il nostro Euroreportage, proprio nei minuti in cui dovrebbe arrivare la bozza dell'accordo. Intanto i dati economici europei: nel 2014 l'Italia insieme a Cipro ha registrato il maggior calo dei consumi pro capite misurati in standard di potere d'acquisto tra i paesi europei. I dati Eurostat segnalano che si è passati dal 103% del 2012 al 98% dello scorso anno. Nello stesso periodo il PIL pro capite è sceso da 101 a 96%. Una guerra del pollo, quella che si profila tra Unione Europea e Stati Uniti, e non è uno scherzo. Il nodo del contendere è un disinfettante. Allarme dei consumatori europei. Il pollame venduto in Europa potrebbe essere immerso in un disinfettante a base di acido peracetico al fine di eliminare i batteri, come chiede l'Europa il Ministero dell'Agricoltura americano. L'Ufficio Europeo per la Difesa dei Consumatori sostiene invece che il pollo venduto in Europa dovrebbe essere sicuro, senza prodotti chimici. Per Bruxelles l'immersione delle carcasse di pollame in questa soluzione chimica per decontaminarne la superficie permetterebbe di combattere la campilobatteriosi, una patologia che provoca crampi, diarrea, febbre ed è indotta dall'aver mangiato pollo poco cotto o cibo venduto in contatto con la carne infetta. I consumatori europei invece sottolineano che negli Stati membri esiste già la sicurezza alimentare, che è il frutto delle strette condizioni di igiene negli allevamenti al momento della macellazione, che i produttori europei devono rispettare dalla stalla alla tavola. Tra il 50 e l'80% dei casi, sostengono inoltre, l'infezione proviene da polli vivi portatori del batterio che in seguito si propaga fino all'uomo tramite l'aria, l'acqua o il contatto diretto. La carne di pollo, secondo i consumatori europei, è solo la cima dell'iceberg ed è per questo che l'azione contro la campilobatteriosi deve cominciare dall'allevamento. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E appuntamento con Europa Notte, per il momento ci fermiamo qui, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.